al amor, ma qualche cosa resta sempre in fondo al cuore, forse un ricordo che vive ancora, una speranza, un'illusione che non muore. Nel suo silenzio il cuore non dimentica e aspetta che ritorni un po' di passano gli anni, passa l'amore, ma qualche cosa resta sempre in fondo al cuore. Resta un ricordo.